Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una stanzetta in affitto è trovata. Per momento va bene. Siamo gente de borgata, non potemo pagare. La canzone Gente di borgata, presentata dai Vianella nel 1973 a Canzonissima, rappresenta una fotografia della Roma genuina che vive fuori le mura, in periferia. Tra gli alti edifici di cemento che piano piano rubano terreno alle campagne attorno a Roma, i bambini giocano con la fionda o con un pallone rovinato dai sassi. La Montagnola è una di queste borgate, vicino all'Ardeatina, a sud di Roma, incastrata tra la Garbatella e Tormarancia. È qui che si può incontrare la romanità più spontanea e vera, dove la gente vive alla giornata, arrangiandosi con quello che trova. Si sopravvive, a differenza da come si vive invece nei quartieri più eleganti, come per esempio i Parioli. Proprio alla Montagnola c'è un bambino a cui però giocare a pallone non interessa più di tanto. La scuola è un obbligo, ma lui vorrebbe volentieri farne a meno e così, agli inizi degli anni 60, presa con fatica la licenza media, il bambino, ormai diventato un alto ed inoccolato ragazzino, lascia gli studi per vivere con vigore il fenomeno che sta sconvolgendo tutti i giovani dell'epoca, la rivoluzione hippie. Nata dalle ceneri del movimento della Beat Generation, la filosofia degli hippie, da noi conosciuti come figli dei fiori, pone le sue fondamenta sul totale rifiuto della guerra e la proclamazione dell'amore universale tramite la rivoluzione sessuale. Accompagnata dal rock psichedelico dei Doors e dal massiccio uso di droghe, questa filosofia di vita sconvolge tutto il mondo giovanile degli anni 60 e 70, rappresentando un fenomeno culturale capace di influenzare anche le generazioni successive. Il ragazzino del quartiere Montagnola è attratto fortemente da questo nuovo modo di affrontare la vita, senza sottostare agli stereotipi che lo costringono a vestire in un certo modo, a muoversi in un certo modo, a pensare in un certo modo. Spinto dalla sua passione per il canto, la danza e la recitazione, il giovane Renato Fiacchini, questo il suo vero nome, inizia a frequentare il mondo dello spettacolo, quel mondo che lo consacra qualche anno più tardi col nome d'arte con cui lo conosciamo tutti. Renato Zero. Renato Zero. Ma erano timidi focolai di una voglia di esserci, di dare alla musica un piccolo contributo. Io poi, diciamo, ero veramente molto piccolo, avevo 16 anni, quindi questa consapevolezza di volere essere Renato Zero non era ancora evidentemente radicata, quindi erano ancora pallidi tentativi di cercare una strada, una dimensione. Una carriera iniziata per caso, quella di Renato, andando a ballare nei locali della capitale, esibendosi davanti a tutti senza inibizioni e senza paure. Roma è una città estremamente viva e le notti romane si popolano di tutti i rappresentanti delle varie mode e tendenze dell'epoca. I punti di ritrovo non sono molti, ma ce n'è uno in particolare che catalizza l'attenzione di tutti ed è destinato a passare alla storia come il centro della vita culturale italiana, il Piper. Chiamatela così. Fondato dall'avvocato Alberto Crocetta, il Piper Club apre i battenti nel 1965 e per un decennio intero ospita tutti gli esponenti più importanti della Beat Generation, da Andy Warhol ai Procol Harum, diventando in breve tempo il locale più alla moda della città. È qui che Renato Zero trascorre le sue serate, cercando di trovare un'occasione per sfondare nel mondo dello spettacolo, incontrando gente e allargando il giro di amicizie. Ma il suo debutto sul palcoscenico avviene quando è ancora 14enne ed è lui stesso a raccontarcelo. Lo ricordo molto bene quel momento perché era Monte Compatri, che è nella zona dei Castelli Romani, e a vedermi venne mia sorella, quella, ho tre sorelle, quella più piccola, con il suo futuro marito, che è un chirurgo ginecologo, quindi sai questi pezzi da 90 proprio di una certa statura. Renato, avvolto nell'atmosfera degli anni 60, ha i capelli lunghi, ricci ed è vestito in modo stravagante, con pantaloni stretti e una camicia colorata. Si muove sul palco in modo esagerato, provocatorio, decisamente fuori dal comune per l'epoca. Mia sorella non disse che quel signorino capelluto e stravagante era suo fratello durante il concerto. Solo quando fu riaccompagnata a casa dal suo attuale marito, lei disse: sai quel ragazzino che si dimenava sul palcoscenico? Quello è mio fratello, quindi se vorrai vedermi anche domani, dopodomani, cioè dovrai accettare questa idea. Farsi accettare. Questo è il più grande problema di Renato Zero. Un problema che inizialmente sembra insormontabile, ma che in realtà riesce a superare con l'aiuto degli amici e della sua famiglia. E così, naturalmente, fu il mio primo, forse, spettatore che riuscì forse a convincere, forse l'abbiamo fatto con mia sorella, estorcendogli anche un consenso, però ecco, si fa anche questo. Ha il cuore d'ogni giorno, è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione, tu, e mi vesto da re perché tu sia. Siamo al Piper di Roma, il locale più importante delle notti romane, un crocevia di artisti, ballerini, cantanti, un luogo in cui trascorrere in allegria una serata, ma anche per trovare opportunità di lavoro e conoscere personaggi importanti. Renato Zero trascorre qui la sua adolescenza ed è qui che conosce un gruppo di ragazzi e ragazze che, come lui, cercano di avere fortuna nel mondo dello spettacolo. Di questo gruppo fa parte anche una ragazzina molto bella, con il corpo minuto ma atletico, che balla e canta molto bene. È la terza di quattro sorelle ed è nata a Bagnara Calabra. I suoi genitori sono insegnanti che, lasciata la Calabria, si trasferiscono nelle Marche a Porto Recanati, dove questa esuberante ragazzina cresce facendosi notare per il suo spirito ribelle. Il set in condotta è un'abitudine, ma in compenso, grazie alle sue doti canore, si guadagna un posto di diritto nel coro della scuola. I genitori si separano e così per questa ragazzina inquieta si aprono le porte di Roma, dove si trasferisce con la madre. Anche per lei, a soli 15 anni, il Piper è il punto di ritrovo preferito per dare sfogo alla sua voglia di ballare e cantare. Il suo nome è Loredana Bertè. Loredana Bertè. Si ballava e ci si drogava di musica, di suono, e io preferivo ballare appesa a una gabbia, devo dire, come Renato. La seconda metà degli anni 60 è il momento di maggiore splendore del locale romano. Loredana conosce molti altri ragazzi che hanno ambizioni come cantanti, ma soprattutto come ballerini. Tra questi c'è anche Renato Zero, che come lei trascorre i pomeriggi e le serate cercando di trovare un'occasione per cambiare la propria vita. Al Piper, questo gruppo di ragazzi che ballano insieme intrattiene tutti con spettacoli improvvisati. Sì, con Loredana abbiamo fatto veramente delle escursioni totali proprio attraverso lo spettacolo. Dopo tante occasioni mancate, una sera Don Lurio, il celebre ballerino e coreografo americano che da anni lavora in Italia, nota questi ragazzi e li chiama a ballare proprio alla Rai in compagnia di Rita Pavone nel programma Stasera Rita. Eravamo un gruppo di giovani scatenati e devo dire che ballavamo tutto il giorno gratis allora al Piper. Allora qualcuno ha pensato bene di invitarci un giorno in Rai e dire: invece di ballare al Piper, perché non ballare con Rita? Sì. Nascono così i collettoni e le collettine, un gruppo scatenato di ragazzi che ballano senza una coreografia stabilita, semplicemente come piace a loro. Accompagnano negli spettacoli Rita Pavone, che proprio in quegli anni sta vivendo un momento di grande successo. Renato e Loredana si ritrovano spesso a ballare insieme all'interno di questo gruppo. Sembra quasi che ci sia un'intesa particolare tra queste due persone che hanno in comune le stesse passioni. Giorno dopo giorno, fra i due cresce una complicità che salda il loro rapporto di amicizia e lo trasforma quasi in un rapporto fraterno. Ancora però nessuno dei due ha capito cosa realmente vuole fare nella vita e non ci sono progetti definiti. Si vive alla giornata e si accumulano esperienze. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. Nel 1970, al Teatro Sistina di Roma, va in scena la versione italiana di Hair, il musical americano che descrive il rapporto dei giovani hippie con la guerra del Vietnam. Tra i vari componenti del cast troviamo fra gli altri Ronnie Jones e un giovanissimo Teo Teocoli. Tra le comparse ci sono anche Renato Zero e Loredana Bertè, che partecipano insieme al provino e insieme vengono scritturati. Renato Zero sta cominciando a definire il suo personaggio. Sicuramente anticonformista, non vuole essere etichettato come un figlio dei fiori o come un saltimbanco che cerca la provocazione solo per farsi notare. Il suo è un percorso lento verso la ricerca di una maschera che lo aiuti a esprimere tutte le sue potenzialità artistiche. In questo, contrariamente a quel che si potrebbe pensare, trova anche l'appoggio della sua famiglia. Io credo di aver avuto sempre molto acceso questo rispetto per la famiglia, per il nucleo, per questa sinergia che naturalmente non si estende oltre ai parenti stretti, anche agli amici, ai collaboratori. Renato trova la forza per continuare questa sua personale battaglia per farsi accettare per quello che è, anche grazie alle persone, familiari e amici di cui si circonda e che lo accompagnano in una lenta ma inevitabile trasformazione. Accanto a lui c'è Loredana, con la quale sta vivendo un percorso comune verso il successo tanto inseguito. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. Mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo Il gruppo di giovani usciti dal Piper, cui fanno parte Renato Zero e Loredana Bertè, sono considerati dalla maggior parte delle persone dei rivoluzionari, capelloni, probabilmente drogati, che non hanno nessun rispetto per la morale. In realtà, dietro una facciata di travestimento, crescono singole persone che ognuna a modo proprio affronta le incertezze di quel periodo con un occhio diverso. La cosa difficile è però farsi accettare, come ci confessa Renato. Devi imparare a mandare giù i rospi, devi imparare ad accettare i no, vi faremo sapere, quelle famose frasi che si dicono agli artisti quando non sono maturi. I provini cui Renato partecipa in compagnia della sua amica Loredana sono moltissimi e spesso non vanno bene. Ma le occasioni per farsi notare sono tantissime e capita che un giorno i due incontrino Giacomo, un loro amico. Una volta un nostro amico che ha una boutique a Roma, ancora oggi è lì quella boutique, che fa proprio angolo con questo viale Ottaviano, è una delle zone più popolari di Roma per intenderci, in zona Prati. E lui ci disse, noi non andiamo tanto bene con sta boutique, che ci vorrebbe di smuoverla un pochino. E io e Loredana gli dicemmo, stai tranquillo che vedrai che otterrai dei fatturati stratosferici. Per uscire dal gruppo, per farsi notare, bisogna fare qualche pazzia. Loredana e Renato si ritrovano in un bar seduti davanti a una tazzina di caffè, raccontandosi l'un l'altro gli ultimi tentativi di sfondare nel mondo dello spettacolo. È Renato che racconta a Loredana del suo amico Giacomo, del suo negozio. Gli piacerebbe aiutarlo, ma non sa come fare. Un negozio ha bisogno di pubblicità, ma ci vuole un'idea nuova, che nessuno ha mai utilizzato prima, come per esempio mettere delle parrucche stravaganti ai manichini oppure usare delle scarpe appariscenti. Improvvisamente, Loredana propone a Renato un'idea assurda, ma fattibile. Entrare loro stessi nella vetrina e indossare i vestiti del negozio, ballando e cantando come sono abituati a fare al Piper. Sicuramente è una cosa che nessuno ancora ha mai fatto. Ecco che quindi due giovani che ancora non hanno trovato la via del successo trovano invece un modo per mettersi in mostra. Ci mettemmo in vetrina con gli abiti di Giacomo, di questo amico, a ballare dentro la vetrina davanti a tutti. Ci furono 4 tamponamenti, arrivarono i vigili, arrivò la polizia stradale. Insomma, ti dico, fu una roba, il fatturato gli aumentò, però ci fummo diffidati da ripetere l'esperienza. Anche se apparentemente quello appena descritto sembra un aneddoto come tanti, in realtà rappresenta uno dei momenti più importanti dell'evoluzione dei personaggi di Renato Zero e Loredana Bertè. I due infatti capiscono che per superare quella indifferenza generale verso le novità occorre presentarsi nel modo più trasgressivo possibile, cercando anche di scandalizzare, se necessario. La vetrina vivente diventa un loro cavallo di battaglia con cui si presentano a tutti i provini successivi. E la cosa comincia a dare i suoi frutti, dal momento che proprio questa gag del provino viene utilizzata nella trasmissione Rai Il suo nome per favore, presentata da Raff Vallone. Non ne posso più, lo sai, mi fai spingere questo coso da Piazza Venezia. Non la faccio più, non sono Mister Muscolo, capito? Chi siete voi? Quale tu? Chi è il numero uno? Io. Come? Sono io il numero uno. Lei come si chiama? Loredana Bertè. Loredana, e lei? Renato Zero. Renato Zero. Dunque, spiegatemi prima di tutto una cosa. Siete vestiti così per un provino particolare? No, o no, sempre, sempre, sempre, quotidianamente, ogni giorno. Quotidianamente. Avete sperimentato questi vostri costumi anche sull'autobus? Certo. Sugli autobus di Roma. Risultato che siamo scesi alla prossima. Alla prossima. E li avete fatte queste cose, vestite così per provocare il pubblico? Certo. Certo. Certo. Spiegatemi una cosa, siete venuti qui per... Noi questo facciamo che cos'è? Tutto. Facciamo tutto. Balliamo, cantiamo e recitiamo. Adesso vi facciamo vedere una pellicola... Sì. Di quando facciamo la vetrina vivente. La partecipazione a questa trasmissione è considerata importante anche da Loredana Bertè. Era la prima volta che facevamo qualcosa da protagonisti, diciamo. Avevamo deciso di lasciare il balletto. Allora volevamo diventare qualche cosa di più e ci davamo da fare con tutte le varie audizioni. Un giorno si cantavano, si ballavano. Noi infatti il nostro slogan era canto, ballo, recito. Cioè, tu cosa fai? Come chiami subito? Canto, ballo, recito. Cosa c'è da fare oggi? Renato delinea il suo personaggio con una serie di travestimenti, imparando a giocare anche con una certa ambiguità sessuale che per anni ha accompagnato il suo personaggio. Loredana inizia timidamente la sua attività di corista in sala di registrazione, dove comincia a farsi notare per le sue doti canore. Con lei c'è sua sorella Domenica, che si fa chiamare Mia Martini. Con la sorella, che ottiene la consacrazione come cantante con il brano Piccolo Uomo nel 1972, Loredana partecipa a numerose produzioni discografiche. Anche il suo successo è alle porte con Sei Bellissima. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. Destini incrociati. Destini incrociati oggi vi racconta la storia di una grande amicizia, nata prestissimo sulla pista da ballo del Piper di Roma e proseguita per un'intera carriera, quella di due grandi cantanti del panorama italiano, Renato Zero e Loredana Bertè. Renato Zero ha finalmente chiara in testa la visione di ciò che vuole fare. Il mondo della canzone italiana è fin troppo noioso e stereotipato. Ci vuole qualcuno che gli dia una scossa e quel qualcuno non può essere nessun altro se non lui. La sua è una continua ricerca di sensazioni, avventure, esperienze che poi lentamente trasforma in canzoni, come lui stesso ci racconta. Sì, perché poi tutto quello che si vive, e io parlo per me, ma credo che sia in buona sostanza anche un sentimento condiviso dagli altri colleghi, si vive e si raccoglie un pochino tutto quello che è il nostro pensiero, l'azione, gli incontri, gli scambi e anche le lontananze, anche poi le assenze, no? Si raccoglie tutto questo e magari diventa una canzone una volta, poi un'altra volta diventa un passaggio in un palasport piuttosto che in un teatro. Tuttavia, la prima esperienza discografica del 73, No Mamma No, pur ottenendo un discreto successo di pubblico, non convince i critici. viene mossa a Renato l'accusa di essersi ispirato un po' troppo a David Bowie e lo definiscono una brutta copia dell'artista inglese. Ma Renato è abituato a questo genere di critiche da sempre, da quando nelle borgate viene subito etichettato come un diverso, dalle prime esibizioni nei locali, quando decide di cambiare il suo cognome da Fiacchini a Zero, proprio perché dal pubblico gli urlano di essere uno zero, di non valere niente. Questa gavetta è servita negli anni successivi, quando il vento è cambiato. Io devo ritenermi fortunato perché ho condiviso proprio soprattutto gli inizi, soprattutto la gavetta, quando mi era un pochino più difficile raccontarmi o avere con il pubblico un rapporto aperto e spontaneo, perché passavamo sempre attraverso una certa... facevamo questa sorta di tac. Ma confessa di aver avuto fortuna e di avere accanto sempre la sua famiglia. La mia famiglia si è andata allargando e naturalmente ha contemplato poi generazioni successive, ma soprattutto quello che io mi sento un pochino, mi fa inorgoglire, è il fatto che io abbia aperto forse dei dialoghi che prima di me non erano forse stati... resi possibile. Cioè, voglio dire che la figura di questo clown, di questo strano pagliaccio che ero io, metteva in discussione chiaramente il padre con il figlio, la nonna con il nipote e anche l'amico con l'amica. Il rapporto con il pubblico diventa quasi un elemento importante da tenere ben presente nella vita di un artista. L'impegno importante di un artista deve essere proprio quello di riuscire in qualche modo a sdoganare quelle che sono proprio le voglie, i desideri e soprattutto l'autenticità del pubblico, dello spettatore, di quello che deve diventare protagonista della propria vita. Tra il pubblico di Renato c'è anche suo padre, che lavora in polizia e che nei primi anni della carriera del figlio ha occasione di incrociarlo diverse volte negli uffici del commissariato. Mio padre era un poliziotto e con ambizioni canterine, perché voleva imporsi nel melodramma ed essere un ottimo baritono. Questo non gli fu concesso, rimase un poliziotto integro e formidabile. L'attaccamento alla Polizia di Stato viene naturale per uno che ha respirato praticamente questa atmosfera proprio del commissariato, proprio in maniera, anche perché a me mi portavano via col carrettone perché mi vedevano strano. Sto cellulare s'apriva, io entravo e puntualmente mi ritrovavo al commissariato di Campo Marzio davanti a mio padre che mi diceva: ancora. Grazie ai vari provini affrontati con il suo grande amico Renato, Loredana comincia ad essere conosciuta nell'ambiente dello spettacolo. Siamo agli inizi degli anni 70 e al Teatro Sistina va in scena Orfeo 9, un'opera rock di Tito Schipa Junior che traspone in chiave moderna la tragedia di Orfeo ed Euridice. Se vuoi salire con noi, la voce che state ascoltando è proprio quella di Loredana Bertè, che canta uno dei brani di quella che è considerata l'opera rock più famosa della storia della musica italiana, recentemente rivalutata dopo anni di censura televisiva. L'Orfeo 9, infatti, affronta problemi come la droga e l'omosessualità che negli anni 70 non potevano essere discussi con facilità dalla televisione di Stato. Anche Loredana è abituata a lottare per far sentire la sua voce. La sua non è stata un'infanzia facile. Dopo la separazione dei genitori, Loredana rimane a vivere con la madre, ma come lei stessa racconta in una vecchia intervista, appena può, scappa di casa. Quando ero piccola, io a 5 anni, già praticamente mia madre, ecco, io mi chiamo Bertè perché è l'unica cosa che mio padre ha fatto in tempo a darmi, poi è scappato, non l'ho più visto. Insomma, non aveva tutti i torti, l'ho conosciuta anch'io dopo mia mamma. Purtroppo non si sono verificate altre defezioni in casa. E io ho detto, accidenti, non se ne va nessun altro, io devo aspettare di essere maggiorenne per andarmene. E invece no, a 11 anni me ne sono andata anch'io. Loredana vive con la sorella Mia, alla quale rimane molto legata. ma la mancanza di una famiglia si fa sentire. E così Loredana cerca negli amici quella mancanza di affetto che ha subito per la separazione dei genitori. Lo stretto legame con Renato Zero è un esempio di come certe volte persone che hanno insicurezze da risolvere nel loro carattere riescono a superare ogni ostacolo e a completarsi stando insieme. L'idea della vetrina vivente Loredana non l'avrebbe mai realizzata da sola. Solo la presenza del suo amico del cuore l'ha spronata a superare quelle barriere che trattengono spesso le persone dall'esprimere estro e creatività. Oltre ad essere dotata di una grandissima voce, Loredana è anche una bellissima donna. Quindi inizia ad apparire nei principali rotocalchi dell'epoca un po' come sorella di Mia Martini, che è già diventata famosa, un po' per i suoi amori come quelli con Adriano Panatta e successivamente Mario Lavezzi. Nel 1972 sta per essere scritturata come soubrette di Canzonissima, ma ancora una volta la dirigenza Rai blocca la sua candidatura perché viene giudicata troppo provocante per la tranquilla serata familiare del sabato sera. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ma la fortuna è dietro l'angolo ed è solo questione di tempo. Dopo l'esordio con Sei Bellissima, tutti i più importanti autori della musica italiana iniziano a collaborare e a scrivere per Loredana e i successi si susseguono uno dopo l'altro. La vita di Loredana Bertè è un continuo alternarsi di splendide canzoni e di avvenimenti fatti apposta per scandalizzare il pubblico. Dal suo amico Renato, Loredana ha imparato che vivere la vita senza preoccuparsi di essere giudicata per le proprie azioni è il modo migliore per vincere le insicurezze che ci si porta dentro. Come si dice a Roma, non ve n'annate. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno. Buongiorno. Destini incrociati. Stiamo ripercorrendo gli esordi di due grandi artisti della musica italiana, grandi amici anche nella vita, Renato Zero e Loredana Bertè. Loredana vive intensamente la sua carriera discografica. Però non è solo la sua voce a farla apparire sui giornali. La sua bellezza infatti è magnetica e focalizza l'attenzione di molti amanti. Uno di questi è il tennista Bjorn Borg, che sul finire degli anni Ottanta sposa la cantante di Bagnara Calabra e le fa interrompere per alcuni anni la sua attività artistica. In qualità di ambasciatore della monarchia svedese, Borg inizia a portare Loredana a ricevimenti illustri con capi di Stato e regnanti e non gradisce che lei possa coltivare la sua carriera di cantante, sempre al limite della trasgressione. Devono passare 4 anni prima che il loro matrimonio naufraghi tra notizie di tentati suicidi e una mancata maternità, come commenta la stessa Loredana durante un concerto. Dopo aver messo tutte le tende che dovete, e dopo aver lasciato il mio di paese, il mio lavoro, i figli, dove dedicarlo, perché ha tirato su il suo, piccolo piccolo, da 1 anno e mezzo fino a 8, ma gli ha la mamma, mi ha detto no, il figlio è solo di sangue blu svedese e basta. E questa informazione potevi darvela 6 anni fa. Ho preso a calci. Dopo 5 anni di silenzio, Loredana Bertè torna a cantare in duetto con la sorella Mia Martini, partecipando a Sanremo 93 con la canzone Stiamo come stiamo. È tempo di riprendere anche vecchie amicizie e Renato è sempre lì a sostenere e aiutare la vecchia amica delle vetrine viventi. Ci sono stati anche dei momenti di tensione, di dolore comune, come accade in occasione della morte di Mia Martini, ma l'amicizia con Renato è l'unica che Loredana ci tiene a non mollare. Loredana ha capito che il suo amico, un po' stravagante, è la sua vera famiglia. Loredana però riprende a vivere la sua carriera in tono minore, anche perché l'attività di cantante ha lasciato il posto a un personaggio più stravagante, sempre più polemico e arrabbiato, ben diverso dalla ragazza solare e sorridente degli esordi. Le notizie di crisi di depressione e tentati suicidi sono diverse, troppo spesso non vere, e capita che sia la stessa Loredana a dover smentire. Non ho nessuna intenzione di suicidarmi, perché troppi favori farei a qualcuno, a tanta gente, non ne ho nessuna intenzione di farli. Sembra quasi che Loredana Bertè sia rimasta rinchiusa nella sua personale vetrina vivente, l'unico luogo al riparo dal giudizio della gente, dei giornali, di chiunque. Di sicuro rimane incollata a un personaggio, dal quale ormai sembra molto difficile liberarsi, ma con Loredana Bertè non si è mai sicuri di nulla. Renato Zero ha festeggiato da poco i suoi 60 anni e ancora vive la sua carriera da saltimbanco dello spettacolo con l'entusiasmo di un ragazzino. La sua amicizia con Loredana Bertè ha superato difficoltà e tensioni, ma è ancora lì, come la passione per questo lavoro che è così forte da superare ogni barriera. Per sfatare un po' questa regola che questo lavoro sia massacrante, io trovo che invece sia un lavoro bellissimo che mi ha sempre consentito di abbracciare l'Italia intera. Dette da uno che ha iniziato a 14 anni il lungo percorso che lo ha portato al successo, queste parole assumono un significato ancora più importante nel rispetto del suo pubblico che lo segue da anni organizzato in un unico grande gruppo, i cosiddetti Sorcini. Termine che nasce nel 1980 a Viareggio, e sostituisce il precedente nome dei suoi fan, gli Zero Folli, perché lo stesso Renato, osservando un gruppo di fan che lo circondavano, li definisce tanti piccoli sorci. Per Renato Zero, il contatto con il pubblico è sempre stato una parte insostituibile del suo lavoro. Dalla prima esibizione a Montecompatri ad oggi, Renato rimane un animale da palcoscenico. Il tratto che va dal camerino fino al proscenio è quello, forse il tempo meraviglioso dove si consuma tutta la forza di quello che si è vissuto, di quello che si è raccolto. Renato ha vissuto in prima persona la fatica per diventare qualcuno e non è molto convinto dei nuovi reality che sfornano uno dopo l'altro cantanti che si ritrovano il successo in tasca senza troppa fatica. Noi siamo in una fase abbastanza confusionale, forse, di quello che è, diciamo, il percorso migliore per la musica e per gli artisti per poter raggiungere e finalizzare ciascuno la propria presenza, la propria prestazione. E questi reality hanno forse lo svantaggio che vengono in qualche modo prodotti immediatamente senza passare attraverso la preparazione, quella silente, quella un pochino più nell'ombra. Renato contesta ai giovani cantanti la mancanza della gavetta, di quel continuo contatto con il pubblico, quell'affrontare così tanti concerti da farti venire il callo sulla mano. È quel percorso che a noi ci è costata fatica e lacrime, perché chiaramente le telecamere e tutta l'apparato, diciamo, celebrativo che offrono questi reality show a noi ci sfuggiva, e questo forse ci ha permesso di crearci quel callo all'interno della mano di quando impugni un microfono. Io ce l'ho ancora qui, se tu vedi, lo vedi qui? Ecco, questo è un callo praticamente che a me mi è venuto col microfono. Come un padre al figlio, Renato si sente di dare un ultimo consiglio ai giovani che vogliono intraprendere la sua carriera. Certamente nel farlo pensa a tutta la sua vita, a come ha cominciato con l'amica Loredana, a quella vetrina vivente che ha spronato tutti e due a fare e a dare sempre di più per arrivare al successo. Perché si deve partire dal basso, anche dalla cantina, se necessario. Per quello che mi riguarda, io consiglierei ai giovani la cantina umida di uno stabile, di rimettere in moto un amplificatore Marshall con una bella chitarra